Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Quando oggi noi assistiamo a una gara di moto mondiale, non parliamo di potenza del motore, gomme, accelerazione, forse solo qualche super esperto lo fa, ma in realtà si discute di argomenti che magari non hanno a che fare con la gara vera e propria, il colore del casco di un pilota, i festeggiamenti, il tipo di festeggiamento, la fidanzata che ha, e le manovre azzardate. Anzi, negli ultimi tempi si è parlato tantissimo di quello, rivalità in pista, polemiche conseguenti a queste rivalità. Bene, tutte queste cose che oggi sono all'ordine del giorno, negli anni 70 le faceva un solo pilota o al massimo un gruppo di piloti, ma il nostro protagonista è quello che col suo modo di correre ha cambiato in qualche modo il mondo ingessato del motociclismo, facendolo diventare più moderno, più simile a quello di oggi. E stiamo parlando di un inglese, il suo nome è Barry Sheen. L'amicizia tra George Harrison e Barry Sheen testimonia quanto Sheen fosse in qualche modo già una rock star, uno che usciva dai canoni del mestiere che si era scelto. E lui nasce nel settembre del 1950 nei sobborghi di Londra. La sua sembra una vita già scritta, perché il padre è un meccanico preparatore di moto da corsa, moto che spesso guida anche lui durante le gare. Insomma, la famiglia Sheen deve organizzare le sue vacanze in luoghi come Barcellona, Assen, Imola, insomma ovunque ci sia un circuito o una gara a cui assistere dopo averla preparata. La mia passione la devo a mio padre, che già nel 1956 correva e io lo seguivo ad ogni gara. Già a 5 anni mi fece montare in sella e così iniziai a provare a cavalcare la mia prima moto in cortile. Fu allora che iniziò tutto. Mi piaceva molto e soprattutto mi sembrava facile. Penso invece che mio padre fosse in qualche modo diviso. Da un lato mi incoraggiava e dall'altro cercava di non impormi quella scelta. Ma ci sono passioni che non si possono contenere. Così Barry a 14 anni è già in sella una Bultaco da trial. Francisco Bulto, proprietario della casa motociclistica Bultaco, è un grande amico collaboratore di Frank Sheen. Per Barry il mestiere del collaudatore inizia così, naturalmente, nelle gare in cui partecipa suo padre oppure in cui il padre fa il meccanico per altri piloti. Barry collauda la moto sul circuito per la messa a punto. Così accade che nel circuito inglese di Brands Hatch Barry fa segnare degli ottimi tempi durante il collaudo. Il padre gli chiede di partecipare accanto a lui come secondo pilota. Barry ha 18 anni, per lui è il tempo di esordire in una gara ufficiale. Barry Sheen esordisce nel mondo delle corse nella categoria più bassa, comincia subito a farsi notare per il suo grande talento nella messa a punto della moto, la gavetta fatta col padre in officina a smontare e rimontare moto dai suoi frutti. Barry conquista le sue prime vittorie, sale di categoria, vince ancora, arriva alla classe 250, dove nel 72 diventa vice campione del mondo alle spalle di un altro grandissimo, Angel Nieto. Nel giorno del test provi la moto per il rodaggio quando è nuova di zecca. Non hai mai corso prima, il motore romba per la prima volta. Tutto è nuovissimo, le gomme, il motore, le ruote, tutto. Barry è bravo, però è anche un bel ragazzo, ha i capelli lunghi, ha un sorriso affascinante, simpatico, allegro, tutti lo conoscono, vanno d'accordo con lui. In gara è molto serio, ma se c'è da aprire una birra e fumarsi una sigaretta, lui è il primo. Inevitabile dire che cominci ad avere successo anche con le ragazze, diventa un personaggio ancora prima di diventare un vero campione. Si fa notare anche dai grossi costruttori. Nel 72 ottiene una Suzuki su cui comincia a macinare vittorie. Sono anni in cui accanto alle grosse scuderie ce ne sono tante altre piccole, a volte sono fatte da semplici appassionati che preparano la propria moto oppure ne ottengono una come sponsorizzazione. Tutto il lavoro deve essere fatto in officina, senza team di meccanici che lavorino per il pilota. È il pilota stesso che prepara e collauda la moto per la messa a punto. Once you've got the right gears, the right jet setting. Quando arrivi ai giri giusti e alla giusta pressione delle gomme e corri per fare un tempo record, proprio allora qualcosa può andare storto. E così inizi a chiederti perché la sospensione sia così morbida, o se ci sia una combinazione sbagliata con le gomme, o che si stiano scaldando troppo. The wrong compound, are they gripping the circuit too much? Are they getting too hot? Nel 74 Barry Sheen esordisce nella 500, la categoria regina, quella che oggi è chiamata MotoGP. Nei due anni precedenti non ha ottenuto grandi risultati, tanto che aveva fatto pensare che la sua ascesa fosse solo un fuoco di paglia destinato a consumarsi in fretta, ma non è così. In sella la sua Suzuki, Sheen migliora gara dopo gara e il 28 giugno del 75 arriva la sua prima vittoria in classe 500, un sorpasso all'ultima curva del circuito di Assen in Olanda, il più difficile di tutti, dove Sheen batte in volata un pilota che non è certo uno sconosciuto, Giacomo Agostini. Il falco e il gabbiano. Se guardiamo le immagini di repertorio delle gare di motociclismo, quelle a cavallo tra gli anni 60 e 70, noi possiamo vedere un'immagine del pilota totalmente standardizzata, tuta nera, casco nero, occhiali scuri, sembra una divisa obbligatoria, cioè a tutti i piloti viene naturale vestirsi così. Ora immaginate in mezzo a tutto questo nero una moto con un pilota che indossa una tuta bianca con delle strisce rosse ai lati e un casco sulla cui parte anteriore campeggia il disegno di un paperino arrabbiato. Questo è Barry Sheen, un pilota che non solo esprime una grande classe e bravura durante la gara, ma porta uno stile personale che rappresenta una vera e propria rivoluzione nel mondo delle corse. Vedevo tutti gli altri piloti che indossavano le stesse cose. Mi sembravano dei soldati in uniforme. Non era divertente. Invece è divertente la faccia di Paperino sul mio casco, perché nessuno si aspetterebbe questa scelta da un vincente. Eh sì, i piloti di oggi con le loro tute colorate, poi ormai gli sponsor sono entrati a piedi uniti insomma su questa vicenda, però i piloti di oggi devono molto a questo signore, che però non ha ancora dimostrato per il momento di essere un vincente fino in fondo, perché non basta la vittoria di qualche gran premio per passare alla storia, bisogna arrivare con dei risultati importanti. Uno di questi risultati sarebbe vincere una gara unica nel suo genere, la 200 miglia di Daytona. Nel 74 nel circuito ovale americano ha trionfato a sorpresa Giacomo Agostini, che ha umiliato i piloti americani tra cui primeggiava Kenny Roberts. Sheen vuole scrivere anche il suo nome tra i piloti europei capaci di strappare il primato lì in America a casa loro. Così nel 75 va a Daytona, dove effettua dei test di velocità per migliorare l'assetto della sua moto. Daytona è ciò per cui ho lavorato per tutto l'inverno. Per me tutto il resto si è fermato ad ottobre, anche il campionato mondiale. L'unica cosa alla quale penso è Daytona, perché si tratta della gara più prestigiosa del mondo, la più grande dell'anno. La visibilità è incredibile e se vinci quella gara significa che hai la moto migliore di qualunque altra e che tu sei il pilota migliore del mondo. Your bike is better than anyone else's, your ride is better than anyone else's. Combattere per diventare il migliore, questo è lo spirito che infiamma i grandi campioni, è una sfida continua contro se stessi per raggiungere i propri limiti e superarli, mettere la propria ruota davanti a quella di un altro a costo di rischiare la vita. Gli anni 70, l'abbiamo detto anche in altre occasioni, sono anni fantastici per le corse di ogni tipo, ma anche anni che pagano un pesante tributo di vite umane in incidenti che spesso sono fatali perché mancano tutte le basilari forme di sicurezza a tutela del pilota. Poi nel motociclismo il pilota è esposto ancora di più perché non ha nessuna protezione, perché cadere vuol dire rimanere aggrappati alla moto e forse anche al proprio destino, ma è un rischio che solo i grandi campioni sanno affrontare con lucidità. At no time have I been worried about my riding or anything, or psychological. La paura per il rischio è solo qualcosa di psicologico e quindi qualcosa che non ti dovrebbe coinvolgere troppo quando sei in pista, perché provoca solo una perdita di concentrazione. Came back and I had a big cheesy grin on my face, it was really funny. Durante la sessione di prove, Barry Sheen sale e scende dalla sua moto, parla con i meccanici, parla con gli altri piloti impegnati nelle prove, ci si scambia consigli, qualcuno segnala un piccolo dosso sull'asfalto, qualcuno dà consigli sulla pressione delle gomme. Sheen a un certo punto lancia la sua moto a tutta velocità per fare un buon tempo e vedere fino a che punto la moto è in grado di tenere la forza centrifuga che sul circuito ovale spinge verso l'esterno. I remember exactly what happened. I've done about four laps. Ricordo esattamente come andò. Avevo completato circa quattro giri del circuito e stavo proprio iniziando a divertirmi e a darci dentro. Raggiunsi la velocità di 176 miglia orarie. Corsi sul cordolo, poi lo superai, finendo sul selciato liscio. Allora persi completamente il controllo. Ricordo ancora come la mia moto si mise a vorticare. Finì per terra e sentì la pelle strapparmisi dalla schiena. Pensai che me l'ero cavata. Cercai di muovermi, ma poi vidi la mia gamba rotta e piegata di 90 gradi in senso contrario. Non me lo dimenticherò mai. È una caduta terribile, la moto che scivola su un fianco, il corpo di Sheen che rotola sull'asfalto a 250 km all'ora. I soccorsi sono immediati, Barry viene trasportato immediatamente in ospedale, rimane sempre cosciente e malgrado le ferite sopravvive. Con lui c'è il dottor Claudio Costa, che è sempre un punto di riferimento per tutti i piloti motociclisti. È lui che lo opera al femore inserendo a martellate un lungo chiodo di metallo che permette all'osso spezzato di rinsaldarsi. La ricostruzione del femore è solo una delle fratture che Sheen rimedia da quella terribile caduta. Eppure dopo 40 giorni lui vuole tornare in sella. L'occasione è il circuito di Salisburgo, ma a quei tempi le moto si accendono a spinta e si sale e si corre, e con il femore ancora dolorante Sheen non ce la fa. Chiede allora di partire per ultimo con la moto spinta da un meccanico. Anche questo serve a far capire la grandezza di un campione e i suoi colpi d'ala. È un campione che vive la sua passione fino in fondo. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Barry Sheen, il campione inglese di motociclismo che negli anni 70 ha portato una ventata di novità in uno sport che fino a quel momento aveva vissuto di una realtà molto standardizzata, monotona, almeno per tutti quegli aspetti che costituiscono il contorno alla vita di un pilota. Abbiamo detto per esempio che Sheen è stato il primo a presentarsi con una tuta colorata, il primo a avere un casco personalizzato, il primo a vivere una vita da playboy, circondato da donne, sigarette, feste e divertimento. E questo vi fa capire perché io in quegli anni tifavo per Barry Sheen e per Lucky Nelly. Dopo l'incidente del 75 sul circuito di Daytona, nel quale rimedia un bel numero di fratture, di viti, placche di metallo, Sheen viene convocato per una campagna pubblicitaria. Sul set incontra Stephanie McLean, quella che diventerà la donna della sua vita. I was talking to my agent. She said, "Oh, you've got to get some new pictures done for your book." Mi chiamò il mio agente e mi disse che dovevo fare una sessione fotografica indossando la tuta colorata di questo pilota che era conosciuto per avere un grande successo con le donne. Quel giorno si presentò anche lui. Mi invitò a pranzo e tutto cominciò lì. And then he said, "Did I want to go out to lunch?" So I said, "Yeah, all right." Beh, insomma, abbiamo perso la testa per una bellissima modella bionda, già ragazza penthouse. I due si sposano qualche anno dopo, appena Stephanie ottiene il divorzio dal precedente matrimonio, faranno coppia fissa per tutta la vita. Una cosa strana per quello che è considerato, insieme a James Hunt, uno dei grandi playboy dello sport inglese, uno che si presentava ai box con la Rolls Royce e poi negli anni successivi direttamente in elicottero. Si racconta che nel 76, in una camera dell'hotel Hilton di Tokyo, prenotata da Barry Sheen e da Hunt, quello di cui avevamo già parlato, si siano avvicendate in 15 giorni 33 hostess della British Airways e un indefinito numero di ragazze giapponesi, quindi insomma se la sono goduta come due rockstar. Barry Sheen si dimostra anche in pista all'altezza della sua fama, uno stile di corsa unico, inimitabile, sempre alla ricerca del limite. La sua moto è la numero 7. Anche in questo Sheen porta una novità che poi tutti gli copieranno, cioè quella di rimanere per un pilota fedele sempre al proprio numero, così come oggi vendiamo fare a Valentino Rossi con il suo 46, che è diventato praticamente oggetto di marketing. Il 7 lui lo mantiene anche quando nel 76 si laurea campione del mondo in classe 500. Avrebbe il diritto di correre con la moto numero 1, ma lui corre con il suo numero 7. Sono molto felice di aver vinto il campionato del mondo e spero di fare lo stesso l'anno prossimo, sperando di non cadere e farmi di nuovo male, in modo di arrivare vincitore alla fine del campionato. Barry Sheen, uno che ama scherzare anche sui suoi errori, sulle cadute, sul pericolo che affronta ogni curva, una paura consapevole che lo porta a prendere delle contromisure, per esempio per proteggere la schiena dalle cadute comincia a inserire delle strisce di plastica sovrapposte con le quali realizza un guscio che successivamente viene perfezionato e utilizzato anche da tutti i colleghi. Anche in questo Sheen mostra un colpo d'ala, perché porta nel mondo delle corse delle innovazioni di sicurezza che negli anni successivi proteggeranno i piloti di tutte le corse, quindi anche in questo senso è un precursore. Nel 1977, nell'anno del punk, Barry Sheen concede il bis e vince di nuovo il campionato del mondo. Diventa uno dei più famosi sportivi d'Inghilterra, viene nominato baronetto, diventa testimonial di diverse campagne pubblicitarie e riempie le prime pagine di tutti i giornali di gossip con la sua storia d'amore. Sulla pista però appare un nuovo antagonista, Kenny Roberts, che è un osso duro. Negli anni successivi riesce a strappargli il primato, ma negli annali delle corse rimane memorabile il duello che i due piloti ingaggiano durante il Gran Premio di Silverstone nel 79, un testa a testa che si prolunga per tutta la gara, coi due che si marcano, si aspettano, allungano, si sorpassano, sfidandosi non solo con la potenza delle loro moto. It's quite the end. Barry Sheen, with absolute effrontery, not only looks over his shoulder, but takes his left clutch hand off the handlebar and waves to Kenny Roberts. In questa concitata telecronaca il commentatore descrive il gesto di Barry Sheen, che dopo aver sorpassato Roberts per l'ennesima volta lo manda a quel paese all'inglese, cioè facendo una V con le dita. Beh, per capire che la sfida non è che contenga cattiveria, ma solo una dose sfrenata, illimitata di agonismo, bisogna aspettare solo un paio di curve dopo, perché Roberts restituisce l'invito di Barry Sheen. Intanto la folla sugli spalti è esaltata, non capisce più nulla, perché sta assistendo a uno dei più incredibili duelli tra due grandi campioni, e si concluderà questo duello con la vittoria di Roberts, ma poco importa. Come sapete, ci sono casi e momenti in cui io ho bisogno di una voce, della voce di un esperto e della voce di uno che c'era e della voce di uno che, oltretutto, il nostro protagonista della puntata di oggi lo ha anche battuto. Sto parlando con un mitico motociclista di quegli anni che nell'81 vince il campionato mondiale, Marco Lucchinelli. Buongiorno Marco. Buongiorno Enrico, buongiorno, ciao a tutti. Buongiorno. Allora, noi stiamo raccontando tanto la storia di Barry Sheen, ma quindi stiamo raccontando la storia di quel motociclismo, e il motociclismo in qualche modo epico, quello del dopo Agostini e del pre Valentino, ed è un motociclismo nel quale tu vai a toglierti una bella soddisfazione perché vinci un mondiale, peraltro un mondiale, correggimi se sbaglio, in cui secondo arriva Mamola e Sheen e Roberts arrivano quarto e quinto, mi sembra, quindi un mondiale di grande livello. A me sembrava proprio di sì, c'erano tutti, c'era Roberts, c'era Barry, che sarebbero già bastati quelli, poi certo. C'era Johnny Cecotto, certo. E tanti altri. Sì, io ricordo di Barry proprio perché, non ti so dire perché mi sono affezionato a lui, perché non è che ha vinto tantissimo, però mi piaceva il personaggio, e poi ho avuto anche la fortuna all'esordio, la prima gara alle Mans nel 76, di fare le qualifiche in prima fila. E era la prima gara la mia all'esordio. Mi ricordo di questa persona di Bari che arrivò con un motorino alla domanda dei giornalisti che gli chiesero cosa ne pensava di Strucchinelli, disse: chi? Quello che ha la faccia di uno che è entrato ai box senza pagare il biglietto, quello. Quindi si vede che è stata anche una cosa reciproca. Però, e poi con Bari, l'anno del mondiale, se ho vinto il mondiale, non, ma veramente lo penso, parte del merito è anche suo, perché la gara di Imola, la gara di casa, diciamo, sì, ad Imola, prima del giro di ricognizione, avevo montato una gomma intermedia davanti perché c'era brutto tempo e aspettavo che piovesse. E finito il giro di ricognizione sulla linea di partenza, e proprio c'è ancora la diretta che se tu vai a vedere su YouTube si vede proprio, viene e mi parla in un orecchio e mi dice: cambia la gomma, Marcolino, che se piove sospendo la gara. Morale, cambio la gomma e la gara è finita sospesa e ho vinto io davanti a Barishin. Quindi voglio dire, era un altro motociclismo da quello di adesso. Vabbè, non ti so dire, beh, certo, certo. E forse ti piaceva perché eravate un po' simili, un po' fuori, sì, dalle regole, fuori. Anche quello. Barry poi, sai, è stato un po' il precursore delle cose strane, cioè arrivava con la Rolls. A un ragazzino piaceva subito uno come Barry. Io poi, grazie a Barry, sai che io ho la passione un po' per la musica, è la mia, sì, seconda passione, sì, e grazie a Barry ho conosciuto George Harrison in Inghilterra, perché siamo andati col suo elicottero a trovarlo in quella casa, quel castello gigante, sì. Ho conosciuto Eric Clapton, che poi quando venne a suonare a Milano ancora al Palatrussardi, sì, mi chiamò e io andai a vederlo. Insomma, quelle cose che ti rimangono impresse, perché i tuoi miti, cioè da Barry agli, vabbè, altri per la musica, insomma, sono grazie a Barry. Certo, certo, era rock lui, come te, devo dire. Senti, ma c'era quell'usanza in quel mondiale, in quegli anni lì, diciamo che quando ti sorpassavi, si racconta almeno che partissero dita, gesti. Sì. C'è la gara di Imola che, guarda, è da vedere, perché praticamente io sono partito non tanto bene, ho superato Barry. L'ho superato la Tosa e gli ho fatto il dito, si vede in televisione. Quando mi ha risuperato lui nel solito posto, mi ha risalutato in quella maniera, ma era fatto per scherzare, non è come adesso in tono offensivo, sì. Era un modo di giocare tra di noi, come, ma era un motociclismo così, più pane e salame, sì, da quello di adesso, però fatto col cuore, ecco, veramente col cuore. E con dei personaggi, perché poi lì c'erano dei personaggi da film, non so come dire. Sì. La differenza da adesso, sai cosa c'era? Una differenza, c'era che c'erano i buoni e i cattivi, cioè c'era chi faceva ginnastica, che era Giacomo Agostini, il professionista, sì, e poi c'erano quelli un po' più cattivi, che erano col capello lungo, che avevano, esatto, la sigaretta in bocca. Se tu guardi i miei podi, ne ho solo 6, e tu vedrai che sono su una sigaretta, cosa che adesso non sarebbe nemmeno pensabile. Sì, no, ti ripigliano il premio, ti ripigliano il premio e ti mandano, sì, a casa. Sì, sì, beh, questo, da fumatore ti faccio i complimenti, perché comunque era un gesto trasgressivo da duro che mi piace molto ricordare, insomma. Sì, perché siamo cresciuti così, io mi ricordo, cioè, era un po', seguiva un po' l'esempio di quello che nella televisione, se il tuo idolo Bardi fumava le Gauloises, però le metteva in bocca, strappava il filtro e buttava via, quindi un po' senza filtro praticamente. E si fumava anche in ospedale, cosa che adesso ti dico, sono tutte cose che sembra di parlare di un altro modo. No, no, certo. E si chiama rock and roll. Si chiama rock and roll. Sì. Marco, sei stato gentilissimo, ancora complimenti dal tuo fan conduttore. Io ti ringrazio, Enrico, in bocca al lupo per tutto. Grazie, grazie. Ciao, ciao, ciao. Funny enough, I never think about dying myself. È buffo, ma non penso mai alla morte. Certo, sarebbe assurdo dire che morire non mi faccia paura, perché mi piace così tanto vivere. Odierei morire, perché penso a quello che mi perderei. L'unica morte che mi preoccupa è quella degli altri, in realtà. Quando penso che uno dei miei amici possa morire, per esempio, in quel caso la morte mi fa paura, ma per quanto mi riguarda non penso mai: oddio, potrei morire. Penso che a nessuno piaccia morire, a nessuno che si stia godendo l'esistenza. What if you're enjoying life? God, I don't want to die, no way. Barry Sheen non muore in pista, anche se nell'84 subisce un altro grave incidente perché finisce sulla moto di un altro pilota caduto dopo un dosso, altre 27 viti nelle gambe che lo fanno passare alla storia con il soprannome di Iron Man, l'uomo che fa suonare tutti i metal detector degli aeroporti. E Sheen, dopo quell'incidente, si ritira e si mette a fare il commentatore in Australia, dove si è ritirato forse anche per il clima mite che addolcisce i postumi delle fratture. E poi il cancro se lo porta via nel 2002 a soli 52 anni, per fare capire quanto il pilota inglese sia stato un esempio anche per le nuove generazioni. Rimane l'omaggio che Valentino Rossi gli ha fatto dopo aver vinto proprio quell'anno il Gran Premio di Australia, facendo il giro d'onore sventolando la bandiera con l'unico indimenticabile numero 7. Barry Sheen, una vita piena di colpi d'ala, di grandi salite, e anche uno che la vita se l'è goduta fino in fondo, un grande campione che ha dato appeal, umanità e anche quella patina, diciamo, di rock and roll al motociclismo, patina della quale oggi usufruiscono anche i campioni di questo periodo. Noi vi aspettiamo con altre storie, vi chiediamo di segnalarci se conoscete qualcosa che secondo voi merita di essere raccontato. Insomma, potete interagire con me ovunque voi vogliate, dal sito al falcoilgabbiano@radio24.it, al mio Facebook, al mio Twitter, ai nostri social. Insomma, se volete, lo sapete, sapete dove sono. Ciao, a lunedì. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.